GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora maltempo in regione, vento, pioggia, super impegno dei vigili del fuoco per alberi spezzati e tetti scoperchiati. Motori varsi, la perda EV, bloccati a Trieste, situazione in stallo, i sindacati pensano a nuove iniziative. Razzismo al posto di primo intervento di Lignano, medico camerunense insultato da un paziente, sporgerà denuncia. Abusa per 3 anni della figlia minorenne della compagna, braccialetto elettronico inflitto a un pordenonese. Il disagio dei dottori ridotti a burocrati, la storia di un medico che ha lasciato i propri pazienti per il privato. Dopo il fuoco, il Carso teme l'infestante Elante, la Slovenia progetta un piano di rimboschimento. La vendemmia nell'anno del gran secco, la carenza di pioggia influenzerà produzione e qualità. Peciots Party in carne alla festa dello scambio dei vestiti per svuotare armadi troppo pieni e sostenere il riuso. 7:19 minuti di venerdì 19 agosto, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito il meteo, il cielo è coperto sulla regione, alle 6 c'erano 21 gradi e mezzo a Trieste, mare poco mosso con temperatura di 24 e mezzo, vento a 23 km orari da est-nord-est, Bora, a Udine, Gorizia e Pordenone 19 gradi e mezzo, a Tolmezzo 18, a Tarvisio 15 gradi, a Forni di Sopra 14, 12 gradi a Sappada e sul Piancavallo, su Monte Lussari e Monte Zoncolan 9 gradi, sulla costa Lignano 22 gradi, grado 21 e mezzo, temperatura del mare 23 gradi e mezzo. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: nuvolosità variabile fino al pomeriggio su tutte le zone, saranno probabili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente che potranno anche essere forti con piogge localmente anche abbondanti. La ventilazione, specie sulla costa, potrà essere sostenuta, ma di direzione incerta dalla sera. Generale miglioramento. E cominciamo con l'ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha investito la regione, causando numerosi danni, ma per fortuna non feriti. Alberi, rami, pali telefonici caduti e tetti scoperchiati. E il maltempo è ripreso questa mattina nell'Udinese, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo a Pasian di Prato per un albero pericolante. Piccoli allagamenti sono stati registrati prima dell'alba nel Triestino, causati dal forte temporale scoppiato dopo le 3:30. Ieri pomeriggio invece piogge e soprattutto vento forte hanno colpito tutto il territorio e creato danni, in particolar modo nell'Udinese, dove sono stati scoperchiati 2 tetti a Pradamano e a San Daniele. Molto colpito anche il Pordenonese, soprattutto a Sesto Arreghene e Spilimbergo, terminati in tarda ora e numerosissimi interventi richiesti ai vigili del fuoco. Tutto colpa di una linea temporalesca che in mattinata si era formata tra il Mar Tirreno e la Toscana e che nelle prime ore del pomeriggio si è abbattuta sul Friuli Venezia Giulia con raffiche di libeccio fino a 120 km all'ora. Il vento da sud-ovest ha provocato i danni più ingenti della breve ma intensa precipitazione piovosa, con alberi e rami spezzati, caduti anche su automobili, tetti scoperchiati e pezzi di lamiera finiti sulla carreggiata, strade interrotte e gran lavoro per vigili del fuoco, protezione civile regionale e guardia costiera in mare. A Pradamano la copertura di un capannone che custodiva le attrezzature per la festa dell'unità è stato divelto dal vento, finendo sulla strada sradicando 2 pali della luce e la linea aerea della TIM, con i vigili del fuoco di Udine impegnati per parecchie ore per rimuovere il pesante telaio. A Udine un grosso platano è caduto in viale Trieste senza gravi conseguenze, mentre ad Aiello 2 alberi sono caduti sulla carreggiata temporaneamente chiusa al traffico. Nella destra Tagliamento problemi sempre per gli alberi caduti a Pordenone, Cordenon, Sporcia, Pasiano e Spilimbergo. Crollati i pali delle linee telefoniche davanti all'impianto di compostaggio di Isambiente di Muraro nel Goriziano, mentre a San Pelagio, sul Carso Triestino, un albero è piombato sull'autovettura, lasciando praticamente illeso il conducente, che è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti. E sono stati 5 gli interventi in contemporanea della Capitaneria di Porto di Trieste, dove l'operazione più delicata è stato il soccorso a 4 bambini che si erano capovolti con gli Optimist nelle acque antistanti del comune di Muggia. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tra gli altri soccorsi eseguiti ieri dalla Capitaneria di Porto di Trieste, quello all'equipaggio a bordo di una barca a vela in difficoltà in rada, un intervento è stato poi eseguito a Duino per dei canoisti, in aggiunta a quello portato a un'imbarcazione che si era incagliata. Passiamo ora alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Sono state ufficializzate nella notte le candidature in regione per il Movimento 5 Stelle. L'ex ministro delle politiche agricole, il triestino Stefano Patuanelli, è capolista per il Senato in Friuli Venezia Giulia, oltre che in Lazio e Campania. Alle sue spalle in lista in regione anche Elena Danielis e Bruno Lorenzini. Candidati alla Camera nei collegi plurinominali e lista proporzionale sono Luca Sut, Ilary Slatic, Marco Castenetto e Mara Turani. L'Alleanza Europa Verde Sinistra Italiana, dopo aver espresso la candidatura di Furio Onsel al collegio uninominale del Senato, annuncia che capolista al plurinominale alla Camera sarà Serena Pellegrino, al Senato la capolista Tiziana Cimolino. E potrebbero essere rese note oggi anche le liste dei candidati di centrodestra e terzo polo domenica e lunedì la presentazione di tutte le liste in corte d'appello. Passiamo alla crisi della Varzila. Si è concluso senza soluzioni l'incontro in prefettura chiesto da una delegazione della coreana Daewoo, che reclama la consegna dei motori bloccati dallo sciopero in corso. I sindacati oggi annunceranno nuove azioni di lotta in difesa dei lavoratori. È fallito il tentativo dei rappresentanti del ramo di cantieristica marina della coreana Daewoo di recuperare i loro motori commissionati allo stabilimento Varzila di Trieste. I tre dirigenti avevano chiesto un incontro al prefetto e ai sindacati. Vi ha partecipato anche l'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen, ed è stata proprio lei a definire irricevibile qualsiasi tentativo di addossare responsabilità a lavoratori e istituzioni. Quella tra Daewoo e Varzila è una questione di tipo commerciale, in cui la Daewoo pretende giustamente l'adempimento di un contratto, ha detto la Rosolen, non riguarda le istituzioni italiane o le organizzazioni sindacali. La Varzila è unico interlocutore e unico soggetto responsabile verso la società coreana. I motori per uso marino destinati alla Daewoo sono stoccati alla Sea Metal sul canale navigabile, ma nulla esce o entra dei prodotti Varzila a causa della protesta scatenata dalla scelta della proprietaria finlandese di delocalizzare la produzione, licenziando 450 operai a Trieste. La delegazione asiatica, hanno riportato in una nota i segretari di FIM Fiom Wilm e la segreteria dell'RSU aziendale, ha affermato che rispetto alla prospettata chiusura di Varzila Italia, le vere vittime siamo noi della Daewoo e speriamo ci siano risparmiati ulteriori danni. A quel punto la delegazione sindacale ha lasciato l'incontro condotto dal viceprefetto Alessandra Vinciguerra. Alessandro Gavagnini, FIM CISL. Noi già pensavamo di non dover partecipare a questo tavolo, ma non ci siamo mai sottratti neanche dall'ascoltare, quindi abbiamo deciso di partecipare. Ma dopo le dichiarazioni fatte a questo tavolo, cioè si è pronunciata la parola esproprio e proprietà, il motore deve uscire a tutti i costi, a quel punto il tavolo si chiude. Marco Relli, FIOM CGL. La delegazione coreana, alla fine della loro spiegazione, ha ribadito che i motori sono di proprietà e che quindi sono delle leggi internazionali. A quel punto il tavolo era finito. I sindacati restano in presidio a Bagnoli e rinnovano le loro richieste. Giacomo Viola, Wilm. Il ritiro del protocollo dei licenziamenti è contestualmente urgente un tavolo di dialogo per trovare una soluzione allo stabilimento di Bagnoli e alla città di Trieste. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. I temi della sanità: sono molti cittadini della regione che si trovano senza medico di base da un momento all'altro. La causa, i pensionamenti o le scelte dei medici stessi, che spesso lasciano la medicina di base per problemi relativi al lavoro, come la eccessiva burocrazia. 114 medici di famiglia assenti in Friuli Venezia Giulia significa che ci sono potenzialmente 170.000 cittadini senza assistenza di base. Poi la verità è che a sopperire alla mancanza di dottori è il lavoro dei colleghi che restano, che passano da 1.500 assistiti a 1.800. Non sono solo i pensionamenti il problema, spiega Fernando Agrusti della FIMG, è il lavoro oggi meno appetibile a causa della troppa burocrazia, e ce lo conferma un medico di Azzano Decimo, Francesco Moras, che da questa settimana ha lasciato il suo ruolo di medico di base, quindi 1.500 assistiti, per dedicarsi all'ambulatorio specialistico in diagnostica ecografica, una scelta personale ma è dispiaciuto. Io mi aspettavo di dedicarmi al paziente, di fare il medico, quindi di dedicarmi proprio alla visita, alla clinica, per cercare di raggiungere una diagnosi a impostare una terapia. Invece mi ritrovo molto spesso a combattere con la burocrazia. Ma non basta la segreteria? La segreteria può fare un filtro rispetto alle telefonate, rispetto alle ricette croniche ripetute, però di certo non può sostituirsi al medico nel momento in cui ci sono da redigere certificati, piani terapeutici. Morassa ha investito nella sua formazione con master e corsi in diagnostica ecografica, a spese proprie ha acquistato elettrocardiografo e due ecografi che usa anche per i pazienti del sistema pubblico senza chiedere costi aggiuntivi. La verità, dice, è che oggi il medico di base non può più lavorare solo con fonendoscopio e otoscopio. Nell'ambulatorio ideale deve esserci la diagnostica di primo livello, come può essere l'elettrocardiografia, l'ecografia. È chiaro che questo presuppone una formazione del medico che deve partire proprio dalla formazione di base, dalla formazione iniziale di specializzazione. Pordenone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un episodio di razzismo è avvenuto al pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro, in cui un uomo ha rifiutato di farsi visitare da un medico di origine camerunense e lo ha apostrofato con epiteti e frasi offensive e di chiaro contenuto razzista, che sono state registrate dal sanitario e dai colleghi che erano con lui nel punto di primo intervento della località balneare. Bersaglio delle ingiurie è Andy Nganso, medico di 32 anni, in Italia da quando ne aveva 19, che lavora per la Croce Rossa Italiana e che ha deciso con il suo legale di sporgere denuncia, come si legge anche nel post sul suo profilo social con cui ha reso noto l'accaduto. Il paziente che lo ha insultato, riferisce il medico nel suo post, sarebbe un veneto di circa 60 anni che aveva bisogno di cure mediche dopo essere rimasto coinvolto in una rissa. L'uomo, si legge nella testimonianza di Nganso, avrebbe rivolto battute sessiste anche all'infermiera che lo aveva accolto e citato anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. È un uomo di 55 anni, residente in provincia di Pordenone, è stato raggiunto da un provvedimento cautelare per aver abusato della figlia della compagna, che oggi ha 11 anni. Le indagini coordinate dalla procura di Pordenone erano partite nelle scorse settimane dopo che alla polizia era stato segnalato lo stato di grande sofferenza vissuto dalla bambina. La squadra mobile ha potuto accertare che l'uomo aveva abusato sessualmente della minorenne sin da quando aveva 8 anni. Nei confronti del 55enne, il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla bambina e il braccialetto elettronico. Anche ieri 949 nuovi casi di coronavirus in regione hanno evidenziato un aumento in rapporto ai test effettuati, circa 4.900. Il tasso di positività è tornato a sfiorare il 20% e l'incidenza è in crescita per il secondo giorno di fila. Sono 365 i casi per 100.000 abitanti in una settimana. Nell'ultimo bollettino sono 6 le persone in terapia intensiva, dunque 2 in più rispetto al giorno precedente. Scesi a 209 con un calo di 8 unità i pazienti positivi negli altri reparti. 2 decessi, entrambi nel Goriziano. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee. Al Friuli Venezia Giulia sono destinati poco meno di 60 milioni di euro per una cinquantina di interventi. La pubblicazione delle graduatorie conclude la prima fase dell'azione del PNRR per gli asili nido e le scuole e i servizi educativi per l'infanzia. A Trieste sono in arrivo oltre 11 milioni di euro per le strutture scolastiche nell'area dell'ex caserma Chiarle di San Giovanni e di Vicolo dell'Edera. Nel primo caso ci sarà l'abbattimento della vecchia struttura e la creazione del nuovo asilo nido per un importo di quasi 2 milioni 200 mila euro e 1 milione 700 mila euro per l'ampliamento della scuola materna esistente. L'edificio scolastico comunale di Via Le Cave si trova nella sede di una ex caserma militare. La nuova struttura sarà costruita con materiali biocompatibili. Quasi 2 milioni 300 mila euro saranno destinati all'abbattimento dell'edificio di Vicolo dell'Edera, in abbandono da circa 20 anni, e alla creazione di un asilo nido. quasi 5 milioni saranno per il nuovo polo scolastico. E oltre 27 milioni sono in arrivo dal PNR in Friuli, sempre per nuovi asili nido e scuole dell'infanzia. 7 milioni e mezzo nella destra Tagliamento, fondi certi a Spilimbergo, Cordenons, San Vito e Pravis Domini, Pordenone in attesa con altri comuni. A Udine, nel campo di atletica dal Dan di Paderno, proseguono i lavori cominciati un mese fa nella parte interna, quasi completato il rifacimento delle 6 corsie della pista, ristrutturate con materiale approvato anche dalla federazione. Alla riapertura gli atleti troveranno anche nuove pedane per il salto in lungo, il salto in alto e il lancio del peso, con un'operazione lungamente attesa e intesa a rilanciare la tradizione dell'atletica leggera udinese. L'intervento prevede anche la realizzazione di una pedana dedicata alle persone diversamente abili. L'impegno economico è di 700.000 euro. I lavori dovrebbero essere completati per fine settembre, inizio ottobre. E un totale di oltre 400 persone, quasi 50 veicoli controllati, 2 sanzioni amministrative elevate da 55 operatori del compartimento di polizia ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia. Sono i numeri principali dell'ottava edizione di Rail Safe Day del 2022. Le verifiche hanno interessato 33 località tra stazioni ferroviarie ed altri siti. Le 2 multe sono state elevate per indebito attraversamento dei binari e per una violazione del codice della strada. L'operazione, che è disposta su tutto il territorio nazionale, punta a prevenire comportamenti anomali ed impropri, come appunto la presenza di persone sulle linee ferrate o nei pressi dei passaggi a livello, il superamento della linea gialla nelle stazioni, la realizzazione di sciagurati selfie. È già iniziata la vendemmia tra i filari della più grande cooperativa vitivinicola del Friuli, in un anticipo record a causa della siccità. E le cantine sono sempre più sostenibili per far fronte ai cambiamenti climatici. Uve in salute, anche se pronte per la vendemmia, ben 15 o 20 giorni in anticipo rispetto alle previsioni. Un mare di prosecco e pino grigio a perdita d'occhio. Un piccolo grande miracolo, visto il gran caldo e la siccità di questa stagione. Da qui arriva una parte delle bottiglie di prosecco DOC vendute in tutta Italia. Siamo nei 125 ettari a cavallo tra Beano di Codroipo e Pantianicco. Flavio Bellomo, presidente della cooperativa dei viticoltori friulani, la delizia. Abbiamo avuto una stagione particolare, si prospetta una vendemmia sicuramente di qualità buona. Sulla quantità capiremo un attimino quelli che sono stati gli effetti di una stagione molto calda e quindi con una siccità molto marcata, però sono fiducioso del lavoro che è stato fatto. Probabilmente il raccolto sarà inferiore al passato come quantità, ma la qualità è salva, a merito dei 400 viticoltori friulani che hanno cambiato velocemente approccio adeguandosi al repentino cambiamento climatico. È grande l'attenzione all'ambiente, riconosciuta anche al Vinitaly con un premio alla sostenibilità. Abbiamo cominciato certificando una sostenibilità integrale dei nostri vigneti per oltre il 90% della superficie. Abbiamo fatto un progetto che cercasse di andare al massimo di quella che può essere la sostenibilità, quindi con vetro riciclato, con un'etichetta fatta di materiale totalmente riciclato, priva di colle. E questo con una vestizione anche manuale, utilizzando del personale assieme alla cooperativa Piccolo Principe svantaggiato. Questo ha fatto sì che siamo riusciti a dar corpo a un progetto che avevamo in testa, con un premio che siamo stati molto contenti, abbiamo ricevuto quest'anno al Vinitaly per un packaging ambientale sostenibile. Beano di Codroipo, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Carso si porterà addosso ancora a lungo la ferita causata dagli incendi. La Slovenia sta progettando interventi di rimboschimento in Friuli Venezia Giulia. Temiamo invece la colonizzazione dell'Ailanto. Nel servizio sentiremo la voce del professore di ecologia dell'Università di Trieste, Alfredo Altobelli. Il Carso Isontino nel 2003 è stato devastato da un incendio che dalla Slovenia è arrivato fino a Jamiano, 1000 ettari contro gli stimati 2800 del 2022. L'Istituto Boschivo Sloveno, proprio a ridosso del confine, aveva fatto un intervento di rimboschimento, seguito anche dall'Università di Trieste, che solo dopo 5 anni ha registrato valori dei parametri base, quali biomassa verde e contenuto d'acqua, vicini alla condizione pre-incendio. soprattutto quest'anno con questi incendi, ha interessato il suolo e il suolo, tutta la componente microbica del suolo è morta, quindi i tempi non sono dei tempi immediati di recupero, ma sono dei tempi piuttosto lunghi. Lo sforzo di rimboschimento del 2003 e altre centinaia di ettari del Carso sono andati in fumo alla fine di luglio. La Slovenia ha già disposto con un decreto la pulizia della biomassa legnosa dai terreni incendiati. Sui terreni privati, dove ciò non è stato fatto fino all'8 agosto, sta procedendo d'ufficio. Contestualmente Lubiana sta predisponendo un piano di rimboschimento che sarà pronto in ottobre e punterà sul ripristino naturale, la piantumazione nelle zone più esposte indicate di Roverelle e Lecci, anche con l'uso già sperimentato di palline di ammendante, semi argilla. Un'opzione giuridicamente non percorribile in Italia per l'assessore Zanier, perché bisognerebbe intervenire su terreni privati. Trattandosi di latifoglie, inoltre, ritiene che il ripristino sarà rapidissimo, anche se teme l'aglianto, e specifica che a livello comunitario noi dobbiamo preservare la landa carsica. La landa in 5 anni ha conquistato altri 700 ettari grazie al progetto seguito dall'Università di Trieste, che coinvolge un centinaio di asinelli e 50 mucche di agricoltori locali. Gli animali al pascolo contrastano l'avanzamento dell'incespugliamento e questo per noi è importantissimo per un discorso di biodiversità. La gestione della landa carsica permette di ridurre notevolmente il rischio di incendio. Per il mantenimento di un valore elevato di biodiversità autoctona c'è bisogno di una miscela ottimale di habitat, quindi di un 40% di bosco, che però si è gestito, poi un 20% a landa carsica e un altro 20% di arbustetti. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato battezzato Peciot Party, l'iniziativa di scambio vestiti che suggerisce di svuotare i propri armadi dai vestiti ancora in buono stato che non si usano più per accogliere una visione del mondo più sostenibile volta al riuso. Appuntamento a Pesare, Sala Agriturismo Sot la Napa, alle 17. Ne abbiamo parlato con Chiara Anzolini di Friday for Future Carnia, organizzatrice dell'evento. È sostanzialmente un evento dedicato allo scambio di vestiti o oggetti. Nel nostro caso, nello specifico, l'abbiamo dedicato solo ai vestiti, per semplicità. Quindi tutti i partecipanti possono portare un massimo di 10 capi a testa, preferibilmente indumenti estivi, solo perché siamo nella stagione estiva, ma in realtà si possono portare anche indumenti di mezzo stagione o anche invernali, volendo. E poi, a seconda del tipo di capo, quindi a seconda della sua pesantezza, quindi un paio di jeans vale di più di un paio di pantaloncini corti, sia a seconda del tessuto, del materiale di cui questo capo è fatto, quindi se è una maglia di cashmere vale più di una camicetta di nylon, viene assegnato un valore in gettoni, diciamo, in cartellini colorati. E poi la persona, utilizzando i gettoni, quindi questi cartellini colorati che le sono stati assegnati, può andare in giro per le bancarelle a comprare, tra virgolette, altri capi provenienti da altri partecipanti. Scopo dell'iniziativa è quello di suggerire che bisogna riciclare più che acquistare. Sì, assolutamente. Lo scopo dell'iniziativa è abbattere il consumismo, diciamo, cercare di ridurre l'acquisto di nuovi vestiti, anche perché l'industria della moda è la seconda più inquinante al mondo dopo quella del petrolio. Giornata d'esordio dopo lo stop per la pandemia per il Palio Cividalese di San Donato, in calendario fino a domenica, nel solco della tradizione trecentesca osservata nelle celebrazioni domenicali fino al 1797, in programma sfilate in abiti medievali, bancarelle con prodotti tradizionali, laboratori, giochi, oltre alla sfida tra i campioni di Borgo Duomo, Borgo San Pietro, Borgo San Domenica, Borgo Brossana e Borgo di Ponte. Oggi l'accoglienza del palio nel Duomo e la benedizione della città con le reliquie del Santo Patrono alle 21. Il trombettista Francesco Minutello, che state ascoltando in sottofondo, il suo quartetto con la partecipazione straordinaria del sassofonista Pietro Tonolo, sono i protagonisti di stasera del Festival di Musica e Territori nei suoni dei luoghi. Sul palco ci saranno anche Simone Serafini al contrabbasso, Gian Paolo Rinaldi al pianoforte e Max Trabucco alla batteria. Il concerto sarà l'occasione per ascoltare dal vivo alcuni brani del nuovo progetto discografico di Minutello, We Live the Present, oltre a musiche di Satie e Bach. Appuntamento a Cervignano, nel Giardino dei Diritti, alle 21. Ancora appuntamenti con la musica e il coro del Friuli Venezia Giulia e l'Orchestra San Marco di Pordenone diretti da Ernest Oetzl saranno protagonisti di un concerto dove musicisti italiani, tedeschi e sloveni si incontreranno nel nome di Johann Sebastian Bach a Tarvisio nel Santuario del Monte Lussari alle 18. Per il ciclo Musica in Villa in cartellone l'integrale delle 32 sonate per pianoforte abbinate a 32 composizioni a firma di compositori affermati e giovani musicisti della regione per le mani di Matteo Andria a Castion di Strada nel biotopo Torbiera Selvuote alle 19. Officine Metalliche, il concerto elettroacustico per voce sola di e con Ivan Zerbinati in programma Gradisca alla Galleria Regionale d'Arte Spazzapana alle 21. D'improvviso apro gli occhi e mi sveglio, non so bene perché. Cosmo, principale esponente della scena elettronica italiana che ha innovato il pop italiano di cui state ascoltando in sottofondo il brano Quando ho incontrato te, si esibirà oggi per il cartellone del ciclo Notti in Arena. In scaletta brani del passato e pezzi più recenti dall'ultimo progetto discografico La terza estate dell'amore dell'artista di Ivrea al secolo Marco Jacopo Bianchi, ex professore di storia e già frontman del gruppo Drink to Me che ha all'attivo un disco d'oro. Il 2018, l'anno della sua consacrazione definitiva con la commissione di canzone d'amore e musica da club, fusi in uno stile unico che trovano massima espressione artistica dal vivo. Prima di lui sul palco si esibirà il collettivo Ivreatronic e il duo Planet Opal, appuntamento a Lignano, all'Arena Alpe Adria, alle 21. Mi addormenterò. Ancora spettacoli, gli abitanti di Arlecchinia e il viaggio tra i segreti del lavoro d'attore ed una ricognizione tra segni dei corpi, gesti e intendimenti delle principali maschere della commedia dell'arte classica a Montereale Valcellina, piazzetta di Palazzo Toffoli in via Giuseppe Verdi alle 21. Acqua è lo spettacolo della compagnia pordenonese Harlequin in programma Pordenone a Parco Galvani alle 21. Sette ore per farti innamorare, lo spettacolo diretto da Giampaolo Morelli che andrà in scena a Piancavallo nella sala Infopoint del cinema alle 20.45. Meglio troppo che niente, la commedia della compagnia Trigeminus organizzata nell'ambito delle attività del progetto Città Sicura in cartellone a Monfalcone in Piazza Unità alle 21. E adesso lo sport agli europei di nuoto di Roma, i tuffi dalle grandi altezze, specialità al debutto che vede impegnati anche due atleti della Triestina Nuoto, la 21enne Elisa Cosetti e il 18enne Andrea Barnaba. Grazie ai loro tuffi la prima giornata di gare si chiude con l'Italia al terzo posto sia in campo maschile che in campo femminile. Cosetti è terza alle spalle delle due tedesche, prima Bader con 157,80, seconda Schmidbauer con 152,70 e terza la Cosetti con 142,20, terzo anche Andrea Barnaba con 76,50, pari merito con un altro italiano, Alessandro De Rose. Dalle 18 in programma la seconda rotazione della gara maschile e le ultime due della gara femminile. Per il calcio, la Triestina in ritiro precampionato a Roma ha battuto in amichevole per 2-0 l'Ossia Mare Lido Calcio, formazione di Serie D, con doppietta di Petrelli nel secondo tempo. E il Pordenone ha ingaggiato il portiere Miguel Angel Martinez, classe 95, che arriva dalla Triestina a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di un anno, spagnolo di Madrid in Italia, oltre a quella della Triestina, nella scorsa stagione ha vestito a lungo la maglia del Catania. Passiamo al basket, punta la promozione in A1 dopo l'amarezza del sogno svanito lo scorso campionato nella finale playoff di Verona. L'Apo Udine guidata dal riconfermato coach Matteo Boniciolli che ha presentato la nuova formazione tra giocatori impegnati già lo scorso campionato e nuovi arrivi come Gaspardo, Miane Palumbo direttamente dalla 1 e il nuovo americano Cheryl. Il prossimo campionato di A2 sarà il primo in cui si affronteranno due squadre distanti solo 15 chilometri una dall'altra, come ricorda il capitano bianconero Michele Antonutti. Un derby anomalo perché oggettivamente per me il vero derby è sempre contro Trieste, però con Cividale sarà molto interessante, sarà bello vedere due squadre di Serie 2 così vicine, quindi per i nostri tifosi in Friuli un altro gran bel palcoscenico. 7.47, passiamo alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura e il capocronaca dell'edizione di Trieste del Piccolo parlano del progetto di bosco urbano in Porto Vecchio. Presentato in comune, il piano da 21 milioni di euro, inclusivo di ciclabili e di stagno, ma per ora non c'è ancora una data dell'arrivo dei fondi da Roma. Fotonotizia per il maltempo e poi la politica con la scelta dei candidati Ciriani, Rizzetto, Matteoni e Tubetti per Fratelli d'Italia, escluso a sorpresa l'assessore Scoccimarro. Per la cronaca, il sopralluogo del sindaco alla galleria di Piazza Foraggi. Nel tunnel adesso bisogna cementare la rete che copre la volta, poi sarà il momento dell'intonaco. Per l'economia, la ricerca di una multinazionale specializzata nella gestione delle risorse umane, che calcola nel 44% la percentuale di lavoratori regionali che preferirebbe cercare un altro lavoro se fosse costretto a rinunciare allo smart working. E anche sul Messaggero Veneto di Udine, rientro in ufficio, il 44% preferisce cambiare lavoro in vista alla fine di agosto dello stop allo smart working. E appunto questa l'apertura del quotidiano udinese, sopra una foto di un grosso ramo caduto per il maltempo sopra un'auto parcheggiata in Viale Trieste a Udine. Di spalla a Lignano, insulti razzisti al medico del pronto soccorso, poi a Tolmezzo un altro negozio chiuso, decine di locali vuoti in città. Sotto catturava tartarughe ed altre specie protette lungo i bastioni di Palmanova. Segnalato da alcuni residenti, l'uomo, che è un veneto ospite di un conoscente, è stato denunciato dai carabinieri. Titoli in prima anche per i fondi del PNRR in arrivo per materne e asili, 27 milioni, tema che apre la cronaca cittadina, e poi la vendemmia in un solo giorno, 4.000 quintali. Accanto il delitto Burgato e il giornalista Domenico Pecile ricorda: intervistai il killer e subito i cubani mi arrestarono. Sul Gazzettino, la crisi colpisce oltre 100 aziende, l'apertura, anche qui nella fotonotizia c'è il maltempo, accanto l'inchiesta sulle criptovalute, gli agenti indagati della società dicono: noi eravamo in buona fede. Anche qui poi gli asili nido e le scuole, con i 60 milioni in arrivo per la regione. In basso Sofia Bergamo, il basket della e accanto ospedale di Gemona, un esposto in procura da parte dei comitati contro il depotenziamento della struttura. L'edizione di Gorizia del Piccolo apre con un censimento degli sportelli bancari chiusi in regione. Tra Trieste e Gorizia sono ora 8 i comuni senza una banca: Dolegna, Sgonico, Moraro, Monrupino, San Floriano, Mossa, Mariano del Friuli, San Lorenzo e Esontino. Fotonotizia per il maltempo, mentre il capocronaca cittadino è per il caso di Legionella scoppiato nel canile comunale e probabilmente da ricondurre all'ondata di caldo eccessivo, dato che le tubature esposte al sole hanno registrato una temperatura dell'acqua intorno ai 39 gradi. Al momento la struttura resta chiusa al pubblico in via precauzionale. Spazio poi alla prossima apertura del reparto di neuropsichiatria infantile all'ospedale San Polo, allestito grazie ai 200.000 euro ricevuti in donazioni. Da Romanzo, la moria di quasi 30 quintali di pesce dei laghetti locali a causa della siccità. Sul Gazzettino di Pordenone gli abusi sulla bambina che oggi ha 11 anni, per 3 anni vittima del patrigno. Anche qui in prima l'inchiesta sulle criptovalute dopo il crack di NFT. Nella fotonotizia il maltempo, vola una tenda e cade su 3 auto, poi a Sacile dove è polemica sul bando del mercato. Rifiuti abbandonati a Pordenone, il comune ha presentato una denuncia contro ignoti. In taglio basso lo spagnolo Martinez tra i pali dei ramarri e il Giro del Friuli Under 23 al via il 4 settembre, traguardo sullo Zoncolan. Sul Messaggero Veneto di Pordenone la fotonotizia per i nubifragi e il forte vento di ieri. L'apertura è però per il caso criptovalute, indagato un socio dell'Accademia. Di spalla la cronaca con il recupero urbanistico a Torre, quartiere dei Murales, e oggi a Caneva i funerali di Marco, da re morto poche notti fa con 3 giovanissimi amici a Godega di Sant'Urbano in Veneto. Il comune ha proclamato il lutto cittadino.